Noi intendiamo un antifascismo di classe nel senso che parta dalla ragione del mondo del lavoro, del lavoratore e della lavoratrice. In questo senso qua, secondo noi, è indispensabile recuperare la memoria storica del fascismo e dell'antifascismo di come è stato nel secolo scorso, per capire anche le sfide che abbiamo davanti. Noi oggi non abbiamo di fronte una ripresa del folklore neofascista di quattro coglioni che vanno sulla tomba di Mussolini. Siamo davanti a un governo che è quello più a destra, probabilmente, della Repubblica Italiana, della nostra storia, più recente, ma che recupera le tematiche e le pratiche fasciste. Mica soltanto la Lega Nord, anche lo stesso Movimento 5 Stelle, di Grillo e di Maio, che si è sempre definito né di destra né di sinistra, utilizzando quello che è sempre stato uno slogan caratterizzante dell'estrema destra europea post-bellica. E allora dobbiamo fare i conti anche con un sentire comune che ha fatto breccia anche nelle classi lavoratrici, di un sentire comune fortemente di destra. E quindi non basta, a nostro avviso, un antifascismo, per quanto giustissimo, il 25 aprile, o rifarsi la Costituzione, che ormai è diventata carta straccia, oppure chiedere, che sarebbe anche giusto, chiedere lo scioglimento dei partiti fascisti, ma che oggi comunque godono, come sempre è capitato nella storia della Repubblica, di coperture nella magistratura, di coperture economiche. Bisogna anche fare i conti col fatto che gran parte delle forze dell'ordine italiane sono egemonizzate da una cultura di estrema destra, e la stessa apologia di fascismo oggi è un reato che praticamente non viene mai perseguito. Insomma, basti pensare a Marzabotto, al calciatore che va a Marzabotto e fa il saluto romano in campo mostrando l'acqua della Repubblica Sociale, della Repubblica Fascista. Se non è apologia di fascismo, quello che cos'è? E allora noi pensiamo che ieri come oggi il fascismo abbia connotati di un movimento di politiche contro i lavoratori, che oggi si classifica come le battaglie dei poveri contro i poverissimi, alimentate dalla Lega Nord e dal suo razzismo, oppure dal sovranismo, da questo nuovo nazionalismo mascherato che fa breccia anche a sinistra, dove il padrone italiano è meno cattivo del padrone tedesco. E quindi il problema è ritornare magari a un'età dell'oro, esistito soltanto in mondi immaginari, della lira. E allora noi vogliamo ricercare nella memoria di ieri le ragioni anche per le battaglie di oggi, per un antifascismo di classe. Faccio qualche esempio. Oggi tutti sono pronti a fare sfracelli se un cosiddetto zingaro ruba 40 euro dalla borsa di una signora. Poi però, se ai contratti nazionali di lavoro, dove lo Stato piuttosto che i padroni tolgono ai lavoratori 2.000 euro l'anno, tutto questo va bene. Oppure chiudono le fabbriche e si perdono migliaia di posti di lavoro ogni mese. Ancora il precariato e il lavoro nero sono assolutamente dilaganti alla faccia dei decreti di dignità. Due scuole su tre in Italia non sono a norma, ma il vero problema sono i migranti che arrivano, e quindi c'è grande soddisfazione anche fra i ceti popolari se Salvini e il suo governo fanno soffrire qualche negro in più, come lo chiamano loro, che tenta di arrivare in Italia. E quindi noi pensiamo che bisogna tornare a discutere delle nostre radici, e quindi proponiamo domani sera un'assemblea alla Casa del Popolo 20 Pietre alle ore 21 di Marzabotto 2, e invece sabato un picnic antifascista a Montesole a Marzabotto, recuperando la storia di Marzabotto, che non è soltanto quella della strage. Basta pensare che prima della Grande Guerra a Marzabotto nascevano i primi cosiddetti sindacati, le leghe dei braccianti, le leghe socialiste, che l'ultimo sindaco di Marzabotto, prima dell'avvento del fascismo, aderì al Partito Comunista d'Italia e morì combattendo durante la guerra di Spagna, che l'ultimo commissario politico della Brigata Stella Rossa, una brigata autoctona di Marzabotto, l'ultimo commissario politico Ferruccio Magnani, era un comunista che fu condannato ad anni di carcere dal Tribunale Speciale dello Stato Fascista, si salvò dalla strage e morì combattendo nel dicembre 44, poco tempo dopo la battaglia di Gelame. E quindi recuperare queste storie fatte di lotte di classe, perché in quei territori lì appunto c'erano le leghe dei braccianti, i primi partiti socialisti, le prime cooperative di consumo, l'inizio di un movimento operaio comunista che fu protagonista di grandi battaglie prima dell'avvento del fascismo. Ricordare questo per noi significa entrare coi piedi nel piatto nelle contraddizioni dell'oggi dal punto di vista dei lavoratori. Quali sono le realtà che parteciperanno? Ma noi per oggi abbiamo avuto l'adesione del Presidente della Rifondazione Comunista e del Dipartimento Antifascista del partito, che ringraziamo. Poi abbiamo tentato di coinvolgere i compagni della Casa del Popolo, i compagni dell'Ampi, militanti di base, che ci hanno garantito che verranno. Noi intendiamo, oltre all'assemblea di domani sera, di fare due cose fondamentali sabato. Alle 11 di mattina al cimitero di Spersicano una piccola commemorazione a Mario Rovinetti, che è morto una dozzina di anni fa, fu partigiano e fu responsabile del distaccamento montanaro della settima GAP. Una storia un po' sconosciuta perché sta molto scomoda da ALPC, perché il distaccamento della settima GAP della montagna non depose le armi dopo il 25 aprile e continuò nelle sue azioni antifascista anche dopo. E quindi il primo appuntamento a Sperticana per commemorare Mario Rovinetti. E poi dopo ci sposteremo verso mezzogiorno e mezza, nel prattone di fronte al Poggiolo, alle pendici di Montesole, per fare i picnic vero e proprio e, diciamo così, delle chiacchiere, interventi tra compagni e compagne.